24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. È lui! È lui che canta in francese. E ieri l'hanno fatto sentire a Ballarò, e Silvio Berlusconi che canta in francese. Ma che gliene frega quello dell'ineleggibilità? Ma cos'è l'ineleggibilità? Dice, sono qui da 20 anni, mo mi devono rompere i maroni con l'ineleggibilità. E canta in francese a una cena elettorale per Alemanno. Silvio Berlusconi, memore di quando cantava sulle navi, le navi da crociera. Buongiorno, questa è 24 mattino. Ci siamo tutti? Sì, Miriam Lucchetti corre da tutte le parti, entra, esce, che vuol dire sempre pessimi segnali. Corre, salta, Peter Bescapè invece è lì in regia, e allora può aprire il nostro Parlamento. Su, forza, dai, che Nicole Minetti è sempre pronta con il caffè qua, puntuale. A tutti quanti, allora io sono contento di ricostituire la coppia scoppiata, no scoppiata nel senso che mercoledì scorso non c'è stata, ma l'abbiamo qui ricostituita. Paola Saluzzi, buongiorno. Ma eccoci. Buongiorno e grazie, e poi spiegherò il perché. Grazie non solo per questa ricostituzione di coppia scoppiata che non può scoppiare. Perché grazie, perché ti svegliamo alle 6:30. Ti svegliamo alle 6:30, ci ringrazia per questo, capito? Esatto. Direttore Luca Dini, buongiorno Luca Dini. Direttore, buongiorno direttore. Di Vanity Fair. Luca, ieri sai che giorno era? Sì, l'ho saputo un po' in ritardo. Mi sembra fosse il compleanno di metà della coppia. Il compleanno di Paola Saluzzi. Eccola per lei, ovviamente. Ma grazie. In ritardo, ma ieri. Grazie. Io sono imbarazzatissima. Grazie, siete auguri, cari, Paola. Siete splendidi, vi adoro. Va bene, basta? Finito? Può passare. Sì, va bene. Allora, che gli frega dell'ineleggibilità Berlusconi? Avete sentito come canta in francese? Com'è che facciamolo, Peter, riusciamo a farlo a recuperare? Sentite in francese, Berlusconi canta, lui canta. Sembra... No, che? No, questo non è Berlusconi che canta, è Berlusconi che parla. Vabbè, insomma, eccolo. Vabbè, e lui canta, ma insomma. Paola Saluzzi, secondo te, facciamo questa domanda che facciamo a tutti: Berlusconi è ineleggibile, soprattutto in tutti i bar d'Italia in questo momento? Il primo pensiero degli italiani è questo. Il primo pensiero, sì, esatto, sì. Io volevo aggiungere, brioche. Sì, volevo seguire questo tuo ragionamento, assolutamente logico. Io credo che ci dobbiamo concentrare su altre cose, sì. Ma non per togliere valore alla ricerca legata all'eleggibilità o ineleggibilità di una qualsiasi persona all'interno del Parlamento. Credo che dobbiamo correre velocemente su altre cose. Sì, ma no, ma la politica è questa, l'ineleggibilità. Tra l'altro, Luca Dini, ti do una notizia. Ci sono 8 senatori nella giunta che dovrà decidere sull'ineleggibilità del PD. 8 senatori del PD sono spaccati. Alcuni la pensano in un modo e altri la pensano. Forse uno di loro è spaccato anche al suo interno. Sì, uno di loro si sveglia al mattino e dice è ineleggibile, poi va a letto la sera e dice no, è eleggibile. Poi si sveglia, no, di notte si sveglia, è ineleggibile, assolutamente. E poi c'è questa politica impazzita, propongono di dimezzare le pene per l'associazione esterna alla mafia, poi scandalo, no, ritirano tutto. Ripropongono di non togliere anche la candidabilità del Movimento 5 Stelle, poi grande scandalo, no, allora ritiro il testo. Luca Dini, ci abbiamo provato. Sì. Ma come la vedi tu la politica vista così in Italia, Luca? Beh, triste, appunto, si parla solo di questo, degli scontrini, delle diarie, un po', insomma... Tragicamente, ecco, devo dire, sono deluso, mi pare non sia cambiato molto, cioè si parla di altre cose ma si continua a non parlare, a non fare quello che serve. Sì, oggi c'è Enrico Letta che va al Consiglio Europeo, chissà se riuscirà a portare avanti il nome. Cosa dovrebbe fare Paola? Perché molti dicono vai lì e batti pugni e ottieni dall'Europa, ma cosa vuoi? Io credo che lui stia facendo un grandissimo lavoro con il governo, loro stanno lavorando con un'intensità che tu dici è normale, insomma, vista la situazione in cui siamo, questa tendenza europeista di Letta, nel senso non europeista, faccio quello che dice l'Europa, ma di andare a portare sul tavolo dell'Europa le cose che siano veramente da fare, è una cosa buona e giusta, che io credo che lui stia lavorando con tutto il gruppo, sia chiaro, veramente bene. Se in Europa porta l'istanza della richiesta non di parole ma di lavoro, visto che di lavoro c'è bisogno per tutti in Europa, giovani e meno giovani, se comincia a fare quello che rompe l'anima e fa il promemoria quotidiano, rischia di ottenere degli ottimi risultati. Sì, il lavoro. Andare a rompere le scatole al tavolo dell'Europa. Rompere le scatole. A proposito di lavoro e lavoro giovanile, c'è questa notizia che il Messaggero mette in prima pagina, gli altri la mettono all'interno. Secondo me è sconvolgente, ve la voglio sottoporre. Un quarantenne su quattro in Italia, dati Istat, vive grazie alla paghetta dei genitori. Luca Dini vive grazie a 40 anni, a 40 anni, ma come, dove vogliamo andare ridotti così? E ringraziamo che ci sono i genitori. Appunto, che sono quelli che fanno i nonni. L'Italia sarebbe un disastro. Beh, è sconvolgente, ma insomma, se uno si guarda intorno è proprio così, ce ne sono tanti. Anche di più di 40 anni, purtroppo. Eh sì, anche più di 40 anni. No, ma io, cioè, i genitori, i nonni fantastici, fanno appunto i nonni, portano, io li vedo tutti i giorni quando vado a prendere i bimbi, sempre i nonni che vanno a prendere i bimbi. Allora, sono il vero welfare di questo paese, bisogna dirlo, un vero welfare parallelo, diciamo, insieme al welfare ufficiale. Paola, a te sconvolge questa cosa? 40 a me anni sconvolge con la paghetta. Alessandro, perché per due ordini di motivi. Perché c'è stato un periodo in cui abbiamo considerato i nostri genitori, lo dico in termini molto ampi e molto, insomma, non sto parlando di noi o delle persone che ci stanno ascoltando, ma li abbiamo considerati i vecchi, no? Cioè quasi le persone, sì, vabbè, però da non mettere quasi neanche più a capotavola. E poi improvvisamente ci siamo accorti che abbiano lavorato per una vita intera solo per, virgolette, mantenere la nostra vita ad un determinato standard. Spero vivamente che chi sta con la paghetta, ovviamente già è avvilito di suo, trovi la forza di inventarsi un lavoro, di tentare di fare qualcosa di nuovo, di tentare di imparare qualcosa Nuovo. Vediamo un po', ma questa cosa è sconvolgente, a me colpisce sempre, quando a Luca Dini voglio sempre anche fargli raccontare qualcosa, un paragone, non per dire sempre l'America è meglio, l'America è più bella, ci sono tante cose belle, però siccome tu direttore hai vissuto tanto in America, è inconcepibile questa idea che a 40 anni si vive ancora con la paghetta dei genitori, per molti per carità è una necessità, non è che sto dicendo che sono i bamboccioni, questi discorsi qui. In America come la vedrebbero? Sì, sarebbe, diciamo, sarebbe l'ultima spiaggia, ma veramente l'ultima. Cioè, si tenterebbe di tutto per non arrivare a questo. E comunque c'è un sistema che lo rende inaccettabile, insomma. Anche un sistema che magari ti dà un po' di possibilità in più, no? Comunque di mettere di stimolo, in più, di certo, stimolo, cioè ti dà la possibilità di mettere insieme insomma uno stipendio per poter vivere autonomamente. In tutto questo impazzimento c'è un Beppe Grillo che in questi giorni sta facendo campagna elettorale. Sentite questa di Beppe Grillo, non so dove fosse ieri. E hanno fatto finta di dare la colpa a me, avevo bisogno di un capo espiatorio, perché quello dice di no e dobbiamo in amore della nostra patria andare a governare insieme a lui, perché il movimento dice di no, e oltre a dire di no il movimento vi dice di andare a fanculo a tutti. Ecco che cosa vi dice il movimento. Eccolo lì, Luca Dini, no, per carità, poi mi criticano, c'è anche il programma e tutto, ma un bel vaffanculo a tutti dal movimento. Ieri Beppe Grillo ha anche ribadito due giorni fa, se tolgono noi ci sarà la violenza. Ecco, questa cosa io veramente non... Come dire che quelli che votano il 5 Stelle sono pronti lì con il piccone o i fucili in mano? Cioè, non credo che proprio che sia così, o no, Luca? No, purtroppo questa è, come hai detto bene, è campagna elettorale. Siamo di nuovo in campagna elettorale, anche perché la verità è che Grillo è felicissimo che abbiano fatto quello che lui aveva previsto che facessero e che ha voluto che facessero. Quindi in realtà dovrebbe dire grazie PD e PDL, perché... io esisto grazie a voi. Non lo so, mantieni alto così il tono, so che Paola Saluzzi quando parla del Movimento 5 Stelle dice sì, adesso dai, mettiti in un abito tranquillo, comodo, respira fino a 5 e di no, però so che a Paola Saluzzi queste cose fanno rabbia, fanno quando le sento. Però perché per l'appunto, visto il compleanno di ieri, anagraficamente parlando, si ha l'età, ma anche se non la si avesse fa lo stesso, che età? Per quanto ricordarsi 30... la violenza in mezzo alle strade. Per quanti anni violenza... hai? 32 anni. Non si evoca mai, no, ma non perché non citarla voglia dire nasconderla come la polvere sotto al tappeto, anzi, per carità di Dio, perché mi fa specie che venga usata per una campagna elettorale da un movimento che dice di non essere politico. Sì. No, ma io volevo sapere, ma quanti anni hai? 32? Perché dici solo 33? Sono del mitico 1964. Ragazzi, io sono dell'anno della Bellucci, vogliamo parlare? allora. Capite? Nascevano ragazze di un certo tipo, allora, cosa dire, così, no, ottimo anche per il Barolo, mi dice la mia mamma. Ah, per il Barolo e la Bellucci e la Saluzzi, vabbè, sentite questa prima del traffico, Piero Grasso, che fa questa, la sapete la gaffe che ha fatto Piero Grasso? Presidente del Senato? No, ve la faccio sentire. Stava commemorando Massimo D'Antona, sindaco ucciso, collaboratore ucciso dalle nuove BR. Sentite cosa ha detto. A noi il compito non solo di ricordare, di onorare la memoria, ma di fare dei valori di Massimo D'Alema un punto di partenza. Ma no, di Massimo D'Alema! No, di Massimo D'Alema, saluti! Vabbè, il nome può succedere. Sì, certo, può succedere, no, ma commemorare la memoria e i valori di Massimo D'Alema. No, c'era dietro la Camusso, ha iniziato a abbassare, c'era a fianco Veltroni, una sfinge, Veltroni non ha fatto neanche un millimetro di movimento dei... Bisognerebbe interrogarsi però in questo caso. C'è una mia amica che dice sempre: guarda che se io ti vedo con il prezzemolo fra i denti perché abbiamo appena mangiato il pesce, lo dico. Nel senso, è terribile come immagine, ma la adoro per questo. Uno dovrebbe dire, mettere sulla spalla e dire no, non D'Alema. Lo so, digli no, presidente, non è D'Alema. Vabbè, ma ormai era andata a commemorare. Era andata, va bene, ho capito, però. I valori di Massimo D'Alema. Oh, D'Alema c'entra sempre. Sempre. 24 mattino. Avevamo un'occasione per cambiare le cose. Adesso ricominciate col girotondo della politica, del calcio, con quei miliardari, la Madonna che non se ne può più, con Balotelli. Fate basta, andate a giocare dietro il campetto della chiesa con i vostri figli. Capito? Porcellum, Mattarellum, Quagliarellum, Finocchiarellum. Un po' vediamo un gran mazzarellum. Io ho pagato 436 euro di IMU l'anno scorso, vorrei continuare a pagare, ma vorrei che questi soldi andassero per la ricostruzione della città terremotata dell'Aquila. Mi piacerebbe sapere qual è stata l'evoluzione di pensiero di Zanda, che è passato dall'ineggibilità di Berlusconi al bloccare il Movimento 5 Stelle. Io penso di poter parlare a nome di tanti sostenitori del Movimento 5 Stelle. Se lo bloccassero scenderemo in piazza, ma non avremo in mano le bandiere. Non è una minaccia, ma è un avvertimento. Voi del diavolo, puttana paletta, molto onorevole presidente Letta, per risollevare quest'Italia poveretta, la strada è assai stretta. Molto onorevole presidente Letta, fai bene e fai in fretta, perché a noi si è allungata la maletta. Letta, qui non fischi più nessuno, porca vacanza mondlodron. Uvrei proprio un bel nivon, per purificaste mon spurcaccione qui. Assolut, porca vacanza. Il nostro Jean Martin ogni tanto compare. Grandioso però, grandioso. Jean... Federico Fellini l'avrebbe messo in un suo film certo. Per principio. Allora, avete sentito comunque anche questo ascoltatore dice se ci cancellano il Movimento 5 Stelle, no? Non è una minaccia, no. No, è un avvertimento, Sentite ancora Beppe Grillo, sempre sulla questione, l'abbiamo recuperato, le barricate, l'anarchia se non ci siamo noi. Certo. Dobbiamo mandarli via col voto. Se non ce la facciamo noi, allora il paese è in anarchia totale e la gente non ci starà più. certo. Andare lì a firmare. Allora succederanno altre cose, ci saranno le barricate. Per forza. Così, noi insomma, o così o con noi o barricata anarchia. Allora, io ho qui il numero di Vanity Fair. Indovina, Paola Saluzzi, stavolta vinco io, ma per la passione musicale, per la passione musicale, Jovanotti, che il 20 giugno andrò, ho già i biglietti, vado a vederlo, il concerto a San Siro, come non me lo toglie nessuno. Jovanotti, che tra l'altro pone, cos'è sta storia, Luca? Sono un padre che non sa dire di no. Cos'è? C'è la fine? Giovanotti, insomma, mi ha fatto effetto quando è tornato da giornalista, perché insomma ha una figlia di 14 anni, sì. Cioè io continuo a pensare a Giovanotti come, insomma, sì, come il ragazzino, esatto, perché esatto. È il figlio, invece è un papà di una ragazza che vuole andare ai concerti anche lei, e quindi come tanti papà, e qui forse sono un po' autobiografico, Inò li lascia dire alla mamma. Eccolo lì. Il lavoro sporco e duro lo facciamo fare alle mamme, no? Il papà è quello che dice sempre sì, mannaggia. Però alle mamme gli viene bene. Sì. Ma certe mamme di una cattiveria proprio, no? Noi facciamo gli smidollati, diciamo la verità, direttore. Esatto. Anche se devo dire, l'articolo che leggerò con maggiore attenzione, come sempre la mia scelta, è quello sull'Afghanistan. Paola, guarda che c'è un reportage sull'Afghanistan, di quello che gli italiani lasceranno in Afghanistan. Io sono rimasto sconvolto, perché qualcosa già ho visto, direttore, cioè cosa lasciamo? E siamo andati lì a pacificare, mi sembra, nel reportage di Mavitelli, che lasciamo un, no, adesso dire un mezzo disastro. Beh, magari è troppo ingeneroso, ecco, però ma sì, cioè in realtà sì, non per colpa nostra, sicuramente non per colpa dei soldati che sono andati, questo è importante dirlo, in perfetta, certo, buona fede, pensando di andare veramente a portare aiuto a un popolo che ne aveva bisogno. Però poi quello che è successo, per come sono state gestite le cose a livello internazionale, è che non si è potuto fare la ricostruzione, la popolazione non ha capito, non ha amato, non ha apprezzato, e purtroppo qui raccontiamo il caso specifico di Bala Morghab, un posto dove la guerra non c'era prima, non c'erano tensioni, sono arrivati stranieri e la guerra è arrivata e purtroppo c'è rimasta. E c'è in particolare la storia di una famiglia sterminata dalle forze internazionali per fuoco, insomma, per errore, non si sa bene come, purtroppo sotto il controllo italiano, del comando italiano, cui è stato chiesto, sì, sostanzialmente domani voi non guardate perché noi dobbiamo fare un'operazione. No, ma infatti il titolo emblematico è: voi italiani ci avete lasciato una cosa, la guerra, è che messa così, poi per carità vorrò leggere, vorrò sempre pensare, no, Paola Saluzzi, che le cose siano con più sfaccettature di quello che può essere un titolo. Sicuramente le cose però sono con più sfaccettature, fa bene il direttore a raccontare. Dice, ma che abbiamo anche combinato lì in Afghanistan? Questa è, a raccontare anche questa lettura, però va detto che abbiamo fatto delle cose, abbiamo tentato e spesso siamo riusciti a fare delle cose eroiche, come tutte le cose eroiche purtroppo, se non sono supportate dal resto della storia, rimangono singoli episodi. Abbiamo fatto tanto, io lo dico perché conosco tante famiglie e tanti di questi ragazzi, di queste persone che hanno lavorato da professionisti. Il problema è il territorio, il problema è dove siamo andati a lavorare, perché non puoi mettere insieme l'acqua con l'olio, ci sono delle incompatibilità purtroppo che rendono più difficile il lavoro, e comunque bisogna avere gli occhi aperti e guardare quello che si è fatto. Certo, comunque trovate tutto su Vanity Fair. Paola Saluzzi, grazie al nostro Gianmarco Ferronato che ha trovato qualcosa di speciale per te. C'è una persona speciale, molto particolare, che vuole farti gli auguri, Paola, anche se un po' di... sentiamo. Tanti auguri da questo ragazzo un po' stagionato, ma con il cuore sempre giovane. Grande Paola Saluzzi! grazie. Un ragazzo un po' stagionato. Sono commossa per questi auguri che non mi aspettavo. Vanity Fair, sì, bellissima, sì. La ristrutturazione, ancora più bello all'interno per immagine e per contenuti, ancora più bello. È finita la sviolinata, va bene, ci teneva a dire. E poi il direttore, a luglio c'è Bruce Springsteen, ieri mi hanno regalato per il compleanno, la mia amica Francesca mi ha regalato il biglietto per andare a vedere Springsteen. Vi rendete conto? Come pane e Nutella, vi rendete prego. Conto? Va bene, grazie Paola Saluzzi, Sky TG24 pomeriggio, tutti, e Luca Dini, ragazzi, col suo Vanity Fair che trovate in edicola. Alla prossima, e ci troviamo dopo il giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, ben ritrovati cari ascoltatori, siamo qui alle 7.22 minuti, vi ricordo che oggi torneremo sul tema immigrazione, immigrati, per carità, in Italia poi c'è sempre questo impazzimento per cui lo si vuole trattare, un argomento così serio con una mancata stretta di mano. Vabbè, frutto sempre di un giornalismo un po' superficiale che abbiamo in Italia, ma in realtà ne parleremo anche noi di quell'episodio veramente minimo del ministro Chieng che non ha stretto la mano, non è riuscito, non ha capito che si è avvicinato il capogruppo della Lega Milano Morelli, che sarà con noi alle 8.45. In realtà vorremmo parlare un po' delle cose un po' più serie che ha detto il ministro, cioè il meticciato è già tra noi, basta vedere le vostre scuole, le scuole dove vanno i vostri figli, insomma. Ci saranno con noi l'onorevole Khalid Shawki, che è responsabile dei Nuovi Italiani per il PD, e Francesco Storace, leader della destra, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, per capire se allora questo dibattito sullo Ius Soli e sull'integrazione è un dibattito che può fare passi in avanti oppure no. Questo dalle 8.15, ora andiamo a sfogliare i quotidiani in edicola. È mercoledì 22 maggio, i titoli che vanno un po' in ordine sparso per i quotidiani, ognuno propone una scelta diversa. Per il Sole 24 Ore l'apertura: casa in arrivo, la proroga per l'eco bonus del 55% e l'incentivo sul risparmio energetico durerà fino a fine anno, è un'anticipazione allo studio del governo. La politica per il Corriere della Sera, la frase di Berlusconi: vogliono eliminare me e Grillo. Si riferisce al PD. Repubblica: stop alla legge salva dell'Utri, è durata meno di 24 ore. Il Messaggero: pensioni, la svolta esodati, il piano del governo prevede uscite anticipate da 62 anni in cambio di penalizzazioni. Il Giornale: il PD vuole abolire il voto. Giustizia: il ricatto continuo, questa invece è l'apertura dell'Unità. La Stampa si concentra sulla strage in America, tornado, la strage di bambini, 24 morti accertati, almeno 7 alunni di una scuola, Oklahoma sconvolta. Il Fatto Quotidiano e Libero si concentrano su una notizia che è anticipata ieri dal Sole: la Fiat scappa a Londra per non pagare le tasse, così titola il Fatto, mentre Libero: la Fiat fugge dalle tasse e lo Stato perde 600 milioni di euro l'anno. Queste alcune delle aperture. Sul Manifesto invece, proprio il tema di cui parleremo noi, Terra Promessa, ci sono la foto di due bambini, uno bianco e uno nero, sui banchi di scuola. Allora, intanto la notizia, visto che si parla molto di lavoro, e Letta lo farà andando oggi in Europa al primo Consiglio Europeo, il debutto del nostro Premier in questo consesso, la ricerca che presenta oggi la Coldiretti e che certifica una cosa davvero sconvolgente è questa: quarantenni allo sbando, un quarantenne su quattro in Italia, il 25% dei quarantenni in Italia vivono grazie alla paghetta dei genitori. Tutti i giornali dedicano spazio giustamente a quella che è una notizia che fa titolo: a 40 anni con la paghetta anche spazzini pur di lavorare. Questo per esempio è il titolo del Messaggero a pagina 12, che presenta questa ricerca Coldiretti SVG. Quarantenni allo sbando, uno su quattro vive con la paghetta di papà, così la vede la Stampa. La Stampa vi dedica anche la prima pagina con il buongiorno di Massimo Gramellini, dal titolo Debiti e paghette. Scrive Gramellini: un quarantenne su quattro vive grazie alla paghetta dei genitori. Perché disoccupato, cassintegrato, parzialmente o saltuariamente occupato, super occupato ma sottopagato, in ogni caso preoccupato. Sono i numeri di un terremoto sociale: i nonni mantengono i figli coi soldi che avrebbero voluto lasciare in eredità ai nipoti. E quando il risparmio delle famiglie si esaurirà, magari dopo la prossima spremuta fiscale benedetta dalla signora Merkel, che ne sarà dei superstiti? A chi venderanno i beni di consumo le aziende per fabbricarli a prezzi sempre più bassi? Già sono costrette a tagliare posti e retribuzioni. contribuzioni? Nel mucchio dei percettori di paghette ci sarà sicuramente qualche parassita indisponibile al sacrificio, una percentuale di illusi che si ostina a perseguire un corso di studio o un mestiere che la rivoluzione tecnologica ha confinato nel Museo delle Cere. Ma la maggioranza è composta da giovani o ex giovani disposti a tutto e condannati al niente. Torrenti di energia ristagnante, il costo emotivo della crisi è superiore perfino a quello economico. Penso all'umiliazione, al senso di fallimento di un adulto costretto a chiedere aiuto ai suoi vecchi. Chissà se in Europa qualcuno ha ancora la forza di fermare questo treno che corre verso il buio. Non è tempo di pagare i debiti del secolo scorso, adesso per pagare i debiti servono stipendi e non paghette. Insomma, il tema del lavoro soprattutto per i giovani, che verrà declinato, poi lo vedremo anche in rassegna stampa in altri modi, che oggi Letta, ripeto, dice affronterò in Europa, si può vedere attraverso anche questa indagine abbastanza impietosa. A proposito di Letta, sul secolo XIX c'è una notizia in prima pagina che, beh, certo non farà piacere al Presidente del Consiglio. Ricordate il servizio delle Iene di qualche giorno fa, domenica, in cui si accusava, c'era un assistente parlamentare che sotto anonimato accusava che in Parlamento ci sono in azione dei lobbisti, soprattutto delle case multinazionali del tabacco e delle case del gioco d'azzardo legalizzato, che avrebbero a libro paga proprio dei deputati e senatori. E beh, prima pagina del secolo XIX, così la lobby del gioco finanziò il pensatoio del Premier. Ilario Lombardo in prima pagina, il retroscena è questo: oggi il Movimento 5 Stelle con un'interrogazione a firma che verrà portata avanti da il senatore Giovanni Endrizzi, che già al CERT di Rovigo si occupa di patologie generate dalla dipendenza del gioco d'azzardo legalizzato, chiederà l'attenzione del Parlamento sul nome Enrico Letta. Perché il Premier nel 2011, quando era semplice deputato del PD, ha ricevuto un finanziamento come sponsor per il suo think tank Vedrò da parte di Lottomatica e Sisal, cioè due multinazionali del gioco d'azzardo legalizzato. La seconda, la Sisal, dal 2010 è presieduta dall'ex ministro di Prodi Augusto Fantozzi. La cifra si gira attorno ai 20.000 euro, è confermata dal tesoriere del pensatoio di Letta, Riccardo Capecchi, che dice: Sisal e Lottomatica hanno partecipato a un convegno sul fenomeno gioco in ottica di una maggiore comprensione delle sue conseguenze sociali e delle sue ricadute fiscali. Per carità, tutta la luce del sole, è sponsorizzato, 20.000 euro, però questo lobby dell'azzardo, i 5 Stelle attaccano Letta, oggi faranno un'interrogazione proprio a dire: ma come, proprio il Premier, quando era deputato, per il suo Vedrò ha ricevuto questo finanziamento? In realtà, fan sapere al secolo XIX, nell'articolo di Ilario Lombardo che inizia in prima pagina e poi continua a pagina 5, dallo staff del Premier, a parte gli sponsor per Vedrò, fanno sapere Letta non riceve finanziamenti personali o veicolati al partito, men che meno dalle lobby, dalle quali da sempre auspica una regolamentazione all'insegna della trasparenza. Vabbè, vedremo se questa sarà una polemica destinata a smontarsi oppure no. Intanto la pubblicità e il meteo, e poi ripartiamo dalla politica e da altre notizie. Ce n'è una sul taglio dei tribunali. Mamma mia, cari ascoltatori, come dovrete tenere le mani strette sul volante. Vi ricordate il taglio dei tribunali? Cioè, via i tribunalini, cioè. Il Parlamento ha deciso, non se ne farà più nulla per ora. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui a tentare di raccontare qualche scampolo di rassegna stampa, qualche notizia la piazzeremo. E allora la politica, cominciamo da questo. La politica si interroga sulla ineleggibilità di Silvio Berlusconi. Sapete quanto è durata ieri la prima riunione della giunta che dovrà decidere al Senato? 4 minuti. Non si sono trovati d'accordo sul presidente, che spetta all'opposizione, e quindi il leghista Volpi non sarebbe molto gradito a quelli del Movimento 5 Stelle e SEL. Il punto chiave è la questione che questa giunta dovrà decidere se applicare e come interpretare la celebre legge del 1957, che per anni è stata interpretata a favore di Silvio Berlusconi e che invece qualcuno la vorrebbe interpretare in maniera diversa per giudicare la sua ineleggibilità. Il Corriere della Sera con Alessandro Trocido a pagina 4 fa sapere che il PD è spaccato. all'interno della giunta ci sono 8 senatori, la sensazione è che per esempio il senatore Casson, il senatore Pezzopane e la senatrice Pezzopane sono orientati al sì, cioè a dire è ineleggibile Berlusconi. Per esempio invece la senatrice Doris Lo Moro dice ci sono 20 anni di storia, è una questione datata e quindi è più invece per la eleggibilità di Berlusconi. Moscardelli è il più esplicito, bisogna esaminare le carte, ma dopo 20 anni di giudizi di un certo tipo mi sembrerebbe davvero singolare decidere diversamente. Insomma, il PD su questo, racconta il Corriere, è diviso. Per il Fatto Quotidiano la giunta prende tempo, ma per il PD Berlusconi è già eleggibile e dunque andrà a finire così. Anche Repubblica racconta la rassegnazione dei democratici in un articolo di Liana Milella, pagina 7, è impossibile far decadere Silvio, sono assai pochi, scrive Milella, 4 minuti, ieri hanno salvato i Democrat dal precipizio al Senato, dalla spaccatura, dalla palese frantumazione, 4 minuti per rinviare la seduta della giunta per le autorizzazioni ed evitare che gli 8 componenti PD andassero in ordine sparso sulla presidenza, insomma non c'è accordo neanche per votare la presidenza. Ieri Berlusconi in una serie di interviste ha detto vogliono attaccare me, vogliono attaccare anche il Movimento 5 Stelle, insomma ha detto chi ha proposto queste due cose è veramente un genio, perché così il PD vince e corre da solo. In realtà un Berlusconi che da una parte diciamo dice peste e corna su queste cose, ma in realtà racconta Libero, almeno nel retroscena a pagina 8 a firma Barbara Romano, Silvio si coccola il governo. Secondo i sondaggi che avrebbe in mano il leader del centrodestra, il PDL al 29%, finché continua così non butteremo giù Letta. Cioè, racconta Libero, secondo i sondaggi che ha in mano Berlusconi, queste del governo delle larghe intese e anche queste polemiche su, per esempio, l'ultima, anche appunto la legge a firma, primo firmatario Zanda e Finocchiaro, per limitare il voto ai partiti o il tema dell'ineleggibilità, in realtà paga in termini di gradimento elettorale da parte degli elettori nei confronti di Silvio Berlusconi. Che dire della politica di un altro giorno invece in cui in 24 ore è comparsa e spuntata ed è stata tolta subito questa proposta di legge per dimezzare le pene per il concorso, perché è condannato al concorso esterno alla mafia. La proposta del senatore Luigi Compagna, poi polemiche, tutti a dire contro, il ministro dell'interno Alfano che diceva non ne sapevo nulla, è un'iniziativa personale, comparsa in mattinata, ritirata in serata. È un po' come la questione della riapertura dei termini del condono edilizio, ogni tanto ci provano e poi scompare, ci provano e poi scompare. Ecco, questo è l'impazzimento della politica. Tanto che la stampa va a intervistare Marcello Dell'Utri, che si trova tra l'altro a Santo Domingo, lo fa Paolo Colonnello che lo raggiunge lì, lo trovate l'intervista, la trovate a pagina 7 della stampa. E Dell'Utri stesso dice: io mi lascia perplesso una legge del genere che dimezza le pene per il concorso esterno alla mafia. Questa legge, per carità, che non si dica che è la legge Dell'Utri, non ne sapevo niente, mi lascia perfino perplesso. Ma lei a Santo Domingo, non scappo, stia tranquillo, sto solo cercando di risolvere il problema della casa, visto che il solito ingroia ne aveva chiesto il sequestro dipingendomi come Al Capone. Una cosa fuori da ogni logica. Comunque ho letto di questa legge, figuriamoci se è per me, non dovrebbe esistere proprio il reato di concorso esterno alla mafia. Cosa significa concorso esterno alla mafia? O si è mafiosi o no? E lei lo è? Ma che domande mi fa? Certo che no, andrebbe abolito il reato, faremmo prima, questa legge non l'ho ispirata io, non credo sia stata fatta nemmeno in mio favore. Nulla ne seppi, dice con punto esclamativo Dell'Utri. Beh, ma a occhio sembrerebbe proprio un favore a lei. Ma no, lo giuro solennemente, non c'è dentro niente, non c'è nessun favore. E Silvio Berlusconi lo sente spesso, Berlusconi è un amico, risponde Dell'Utri, lo sento, segue le mie vicissitudini ma anche le mie vicende familiari, comunque lo sento anche abbastanza preoccupato per il paese ma al tempo stesso fiducioso, viviamo tempi difficili. Comunque riguardo alla mia condanna non voglio fare il latitante, certo a 72 anni a settembre non se ne parla proprio, non avrò neanche il beneficio dell'età perché non vale per i reati di mafia, non voglio lo sconto, voglio essere assolto. Il reato non c'è, tra una settimana tornerò in Italia. Così Marcello Dell'Utri. A proposito di Berlusconi, Il giornale racconta quella che mi è sembrata in questo impazzimento della politica la notizia più interessante. Succede nell'Istituto per Geometri Michelangelo Buonarroti di Caserta, umiliato dalla prof per una maglietta pro Silvio. Così raccontano Gianmarco Chiocce e Simone Di Meo. Uno studente di 16 anni va a scuola con una maglietta con su la foto, il disegno di Berlusconi, che sorridente, la professoressa lo vede e infuriato gli dice: toglila. Lo fa spogliare in classe, gli ordina di toglierla al grido: ti dovresti impiccare tu e Berlusconi e ti ucciderei a te e pure a lui. Questa almeno è la versione dei genitori del ragazzo che hanno sporto denuncia nei confronti di questa insegnante. Ragazzo insultato, fatto spogliare in classe, aperta un'inchiesta sull'insegnante, umiliato dalla prof per una maglietta pro Silvio. Succede in un istituto tecnico di Caserta. E invece Grillo ancora insiste, l'abbiamo sentita anche alle 6.30, se scompariamo noi è esplosione di violenza, questo è il titolo del Corriere della Sera, in giro per comizi per le elezioni amministrative, abbiamo bisogno di andare al governo, non ce la facciamo più col 25%, poi ha detto anche in un comizio ieri, fa sapere il Corriere della Sera, c'è il Pirletta che è il nipote e il Pirlotta che è lo zio. Questa è la battuta su Enrico Letta, il Pirletta. Saccomanni, ministro dell'economia, talmente esperto che gli sono sfuggiti Montepaschi e Unipol. Renzi, un ebetino. Berlusconi gli ha suggerito di copiarci. Ecco, questo è il Beppe Grillo che rispolvera le sue solite battute storpiando e utilizzando anche qualche insulto sui nomi. Se ci cancellano sarà violenza e anarchia, questo è il messaggio che gli era mandato, anche se il Movimento 5 Stelle fa discutere che cosa a livello parlamentare, una sorta di bavaglio sulle interviste, questo almeno lo giudica così il quotidiano Repubblica, ma anche La Stampa, cioè una mail dell'ufficio comunicazione del Movimento 5 Stelle a tutti i deputati e senatori dicendo: registrate tutte le interviste che fate con i giornalisti. Le interviste è meglio farle nella sala del gruppo, registrandole, perché i giornalisti sgraditi, a volte sono anche inaffidabili, declinare le richieste di colloquio soprattutto con quelli considerati in mala fede. Questo è l'input che è venuto dall'ufficio comunicazione e come del Movimento. E come racconta Andrea Malaguti sulla Stampa, più controllo sui deputati Movimento 5 Stelle, arriva la scorta per le interviste, sintetizza tutto l'onorevole Matteo Dall'Osso del Movimento 5 Stelle, che scrutato i giornalisti gli chiedono un commento su questa cosa della mail della comunicazione e lui risponde: è giusto, perché voi giornalisti siete delle merde. Come scrive Malaguti sulla Stampa, bonjour finesse. Devo dire che però la politica ieri, o meglio oggi sul giornale, declinata in una pagina del Corriere, mi ha fatto ridere. Io ringrazio davvero il Corriere della Sera, mi ha messo di buon umore dalle 5.30 di questa mattina, quando ho letto questo titolo a pagina 11 sulla legge elettorale. Udite, udite, legge elettorale, oggi il vertice decisivo. Io quando l'ho letto ho detto: ma è straordinario questo paese, il vertice decisivo. Siamo d'altronde nella terza settimana decisiva per la riforma elettorale, dopo averne avute una cinquantina nella scorsa legislatura, l'ultimo anno. Oggi il vertice decisivo, capite cari ascoltatori, voi che andate a lavorare, invece oggi c'è il vertice decisivo. E sotto tra l'altro c'è un altro titolo che davvero mi fa: Renzi dice no al porcellinum. C'è il porcellinum, dal porcellum si discute se passare al porcellinum. Ah vabbè, ovviamente mi sono fermato al titolo, non ho letto neanche mezza riga, però ho riso tanto, grazie davvero. E in tutto questo Letta, oggi il premier Letta, Enrico Letta, è in Europa. È il primo consiglio europeo nel quale Letta si impegna a far sentire forte la voce dell'Italia su un tema che è il tema centrale che vuol portare avanti il governo delle larghe intese fin da subito, come declinato dal Premier in varie interviste, in vari interventi, vale a dire quello del lavoro giovanile. Ancora si ritorna insomma un po' come era all'inizio della nostra segna stampa, con questi quarantenni che non hanno la paghetta. Letta: l'Europa spinga per la crescita, questo è il titolo del Corriere della Sera, si vuole una svolta come negli Stati Uniti studiate in Giappone e puntare ovviamente al lavoro giovanile. Senza lavoro giovanile l'Unione Europea implode. Subito misure per il lavoro, questo anche pagina 11 della Stampa, è ciò che Enrico Letta andrà a dire a gran voce oggi al Consiglio Europeo, anche se il Corriere della Sera con Alberto Alesina fa un editoriale molto puntuale dal titolo "Una staffetta senza virtù". Scrive Alesina: un anno e mezzo fa l'ex ministro Elsa Fornero diceva agli italiani che avrebbero dovuto lavorare più a lungo, anche fino a 67 anni. Oggi il ministro Giovannini spiega loro che devono lasciare l'impiego prima per far spazio ai giovani attraverso la cosiddetta staffetta generazionale, vale a dire un dipendente accetta di lavorare meno ore con meno stipendio o andare in pensione con una qualche penalizzazione purché la sua azienda assuma un giovane. Giustamente, dice Alesina e scrive, credo che gli italiani siano un po' confusi. Un anno e mezzo fa si diceva una cosa e ora questa. E scrive ancora Alesina: il mancato sviluppo fa sì che le ore lavorate non aumentino, restino fisse. Redistribuirle tra giovani e anziani, come prevederebbe la staffetta generazionale, non aiuta certo nell'aumentare il reddito degli italiani, semplicemente lo redistribuisce da padri e madri a figli e figlie. Posto poi che la staffetta funzioni, la disoccupazione giovanile si ridurrebbe sì, ma in modo fittizio, non creando più lavoro quanto redistribuendo quello già esistente tra una generazione e l'altra. Certo, però, il beneficio della staffetta generazionale, racconta Lesina, è qualche effetto ce l'ha, perché più a lungo un giovane rimane escluso dalla forza lavoro, meno diventa impiegabile dalle imprese e quindi scoraggiato. La staffetta potrebbe per questo aiutare a ridurre il tempo di attesa dell'impiego. In secondo luogo, si potrebbe rendere figli e figlie meno legate al reddito dei padri, madri e alla famiglia, quindi più mobili, facilitando il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche quando questo richiede un cambio di città o luogo di vita. Però certo, racconta Lesina, la staffetta in sé per sé non aiuterà la crescita, anche se ha delle cose virtuose. Vabbè, siamo già quasi in chiusura. Noi parleremo appunto di Ius Soli, di cittadinanza, di meticciato, il meticciato che è già una realtà, ha raccontato ieri il ministro Kyenge, che era a Milano. A Milano è stata data la cittadinanza a 200 bambini italiana nati in Italia, ovviamente un gesto simbolico, non ha alcun valore giuridico, ma ripone e rilancia il dibattito sullo Ius Soli. Per carità, l'informazione oggi tratta invece l'aspetto più di marginale, no? Di questa polemica sulla stretta di mano mancata tra il ministro Kyenge e il capogruppo della Lega Morelli, se poi ci sia stata una mancata stretta di mano vera e propria oppure era un po' concitato, è stata allontanata la persona dalla scorta perché non si conosceva chi fosse. Bisognerebbe vedere. In ogni caso, insomma, avremo anche noi Alessandro Morelli ospite alle 8.45. Voglio chiudere con la notizia di cui avevo detto prima, questa non me la voglio perdere. Donatella Stasio a pagina 17 del Sole 24 Ore: taglio dei tribunali, tutti per il rinvio. Ve lo ricordate? C'è accordo unanime anche dei 5 Stelle, così Nitto Palma dice: d'altronde tutti mi conoscono per essere un uomo di mediazione, ormai, scrive il Sole, anche i ciechi e i sordi avevano capito, e cioè che c'era il rinvio della nuova geografia giudiziaria. Lo vuole all'unanimità, lo vogliono le forze parlamentari, le stesse che dicevano di volere la riforma, ma che subito dopo che averla approvata hanno cominciato a contestare le scelte di Monti, quelle che volevano cancellare i tribunalini, redistribuire, tutto rinviato dalla stessa politica che diceva sì, bisogna tagliare, poi appena Monti ha fatto il piano di tagli, adesso no, rinviamo tutto, l'Italia è il paese dei rinvii, il paese straordinario. Così da cialtroni non faremo mezzo passo in avanti. Ma auguri a Enrico Letta, che oggi va a fare la voce grossa in Europa. 24 mattino. Eccoci alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo tornare, lo abbiamo fatto già nei giorni scorsi, sul tema dell'immigrazione, i temi della cittadinanza. Alcuni nomi intanto vi voglio proporre: Jaffirul dall'India, Fatim dal Bangladesh, Sherzaman dal Pakistan, Luis dalla Cina e Karim dall'Inghilterra. Sono 5 dei 18 compagni di classe di mia figlia Angelica in prima elementare. Certo, una scuola pubblica, una grande città come Milano. Proprio ieri a Milano c'era il ministro Kyenge, quello che ha fatto molto discutere, il ministro dell'integrazione, colei che ha suscitato molte polemiche, rilanciando forse e certamente in modo un po' inopportuno e un po' con una fuga in avanti i temi dello ius soli, cancellare il reato di clandestinità. Insomma, nelle prime interviste ha francamente un po' esagerato, poi si sa come funziona in Italia, il dibattito è subito impazzito e le polemiche hanno preso il sopravvento. Ma la domanda che vi voglio fare è: quei bambini che ho citato, secondo voi sono italiani? Indipendentemente dal passaporto, cioè sono italiani perché mangiano pasta e pizza, magari tifano Milan, Juve, Inter, guardano i cartoni che guarda mia figlia, si leggono e studiano italiano, oppure, ecco, interroghiamoci su questo, su una cosa concreta, poi se vorrete parleremo anche delle polemiche di ieri, la mancata stretta di mano tra il ministro Kyenge e il capogruppo della Lega Morelli, che poi ci raggiungerà. Sentiamo anche le parole del ministro Kyenge, che dice, al di là di tutto, il meticciato è già una cosa concreta che è tra di noi, è la fotografia del paese. A livello nazionale bisogna cercare di far passare questo messaggio, quella di una nuova convivenza, di una cittadinanza forte, una cittadinanza dove ognuno di noi possa ritrovarsi, dove ognuno di noi possa essere sicura che lì dove sceglie di abitare, lì è casa sua. Il meticciato, come ho detto anche prima, è già una realtà nelle nostre scuole. Se voi uscite, andate nella stazione, andate ovunque, negli ospedali, vi rendete conto che non sono parole mie, ma sono quelli che è la fotografia del paese. La fotografia del paese. Allora la domanda la pongo a voi, 800240024, se quei bambini li possiamo considerare italiani. La pongo anche ai nostri ospiti, l'onorevole Khalid Shawki, che è del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto, onorevole. Buongiorno. Saluto anche Francesco Storace, leader della destra, vicepresidente del Consiglio regionale in Lazio. Buongiorno Storace, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, lei come li considera? La pongo subito a lei. Partiamo da questa cosa concreta, italiani o non italiani, indipendentemente dal passaporto? Ma non sei italiani perché si capita nel paese, sei italiani anche per scelta di cittadinanza. Io credo che questi ragazzi sono i benvenuti e sceglieranno loro se diventare cittadini italiani. Alla maggiore età, all'età consentita dalle leggi, e loro scelgono i loro genitori. Io credo che questo sia un fondamento. Tutte queste polemiche, francamente, stanno provocando semplicemente un dibattito accesissimo, proprio si sfugge dal problema. Chi è che sceglie se essere cittadino? Il ragazzo o la sua famiglia? Secondo lei il ministro Kyenge in questi primi 20 giorni di governo ha sbagliato, e in che cosa se ha sbagliato? No, guardi, purtroppo parliamo di un particolare tipo di ministro che è incriticabile per natura, perché se ti azzardi a contestare le scelte ti danno subito che esista. Siccome io non lo sono, mi astengo dal parlare di questo ministro, però la vedo un po' strana nei movimenti, nelle parole che dice. Insomma, dovrebbe capire che questo è un paese che ha anche qualche altro problemino, penso alla disoccupazione che riguarda milioni di cittadini italiani, penso al dramma della casa. Ecco, se tutto è legato semplicemente, anche se è importante, ma non prioritariamente, alla cittadinanza di chi viene da fuori, credo che il governo sbagli indirizzo. Lei si occupa di quello. Uscire dalla crisi economica. No, quello sì, però lei si occupa di quello, non è che si deve occupare. Infatti non ho capito a che diavolo serve questo tipo di ministero. Ah, lei lo cancellerebbe, il ministero all'interno? No, credo che ci sono ministeri, insomma, non ricordo che questo ministero ci fosse anche nei precedenti governi, non è sicuro che ricordo male, sì, sono molto lontano da quel palazzo da tempo. No, non c'era effettivamente, però nei contesti c'è l'idea del... Perché a me sono pare incredibile che un ministro della Repubblica non stringa la mano a un suo avversario politico, cioè è qualcosa che francamente non so che altro deve succedere in questo paese, io non so se il nostro interlocutore che studio, che saluto, mi stringerebbe la mano. Ecco. Non lo so, glielo chiediamo, Khalid Shawki, lei stringerebbe la mano a Storace? Ma non c'è un po' di dubbio, insomma, il confronto si fa sulle idee, poi ci deve essere sempre il rispetto reciproco. E penso che insomma il caso di Milano, quello che è successo, come lei stessa, insomma, i suoi hanno precisato, è stata una questione insomma di un incidente. Sì, ecco, ma poi guardi, della stretta di mano poi ci raggiungerà alle 8.40 il capogruppo della Lega Morelli, ci darà ovviamente la sua versione. C'è da dire che già Roberto Maroni oggi in un'intervista a Repubblica dice: ma no, io so da ex ministro, so come vanno ste cose, c'è la scorta, non è che ho visto un'intenzione proprio non volesti, ma comunque poi sentiremo. Guardi, il ministro l'ho fatto anch'io, la mano da chi me l'ha data a tutti. E comunque poi approfondiremo. Onorevole Sciauchi, però le voglio chiedere questo: lei il ministro Kyenge la conosce anche bene, so che avete fatto un percorso anche insieme, vi conoscete, insomma politicamente siete cresciuti insieme, lei adesso è onorevole come ministro, non si è spinta un po' troppo avanti? Storace dice addirittura quel ministero, io non capisco neanche che cosa serva. Ma intanto sul ministero, insomma, era stato già inaugurato anche dal Presidente Governo Monti con Riccardi, quindi se parliamo del tema dell'integrazione come un percorso che va costruito, che non è facile, credo che anzi un ministero sia centrale e decisivo anche per decidere, insomma, e cercare di indirizzare quale integrazione vogliamo. Sulle dichiarazioni io credo che il problema sia di chi oggi continua a negare un dato di fatto, e quindi il ministro Kyenge, ovviamente noi abbiamo lavorato per anni sul tema della cittadinanza perché lo riteniamo un tema prioritario per la coesione sociale dell'Italia, poi ovviamente insieme a tutti gli altri temi che sono l'economia eccetera, e lei ha fatto benissimo a metterlo subito sul piatto, perché non possiamo continuare a fingere di fronte a un'Italia che è cambiata e che insomma continua di fatto a sancire una discriminazione, secondo me inaccettabile, per una fetta importante di minori, di bambini. Ma senta, ma non crede che, come dice Storace, cioè se uno vuole, il percorso per diventare cittadino italiano c'è? Ed è chiaro, forse si può magari discutere se abbreviarlo, ecco, se renderlo un pochino, e su questo magari chiederò sia a lei sia a Storace un parere, però anche l'idea dello ius soli, che è un qualcosa che esiste in Francia, lei la vorrebbe per esempio, cioè l'automatismo per cui se uno nasce in Italia diventa italiano? Ma qui c'è stato un fraintendimento e qui forse andava comunicato meglio fin dall'inizio, insomma vi do ragione. Noi non prevediamo uno ius soli secco all'americana, perché sappiamo benissimo che l'Europa non sono gli Stati Uniti, che abbiamo una cultura diversa anche della cittadinanza, insomma legata anche a un contesto culturale eccetera, quindi noi prevediamo lo ius soli cosiddetto temperato, cioè la cittadinanza italiana ai bambini che nascono in Italia da famiglie che già vivono in Italia da almeno 5 anni, quindi questo va subito precisato. Beh, però cioè, se uno vive da 5 anni in Italia, mi faccia capire, se ha un figlio, quel figlio automaticamente è cittadino italiano nel momento in cui nasce? 5 anni in Italia di persone che lavorano, ed è anche il range di età che generalmente in Europa. Quindi almeno in quello sarebbe automatico, cioè alla nascita la se la famiglia è integrata da 5 anni c'è la possibilità di diventare subito italiano. Noi pensiamo che 5 anni siano sufficienti per dimostrare il radicamento della famiglia. La priorità, e rispondo a Storace, non è tanto la libertà del figlio, che poi a 18 anni, anche nelle nostre proposte come in quelle di Scelta Civica, e non solo, poi a 18 anni il ragazzo, la ragazza decideranno se mantenerla o meno, hanno 2 anni di tempo per deciderlo, quindi questo sta nella libertà. La priorità oggi è garantire l'uguaglianza dei bambini nati in Italia, crescere almeno da italiani. E questo è un punto interessante. Storace ha capito, non ci sono quelli che arrivano, gli sbarchi che vengono solo per partorire in Italia, ecco, questo chiariamolo. Però se uno è radicato da 5 anni come famiglia, fa un figlio, in quel momento il figlio è italiano. Io considero abbastanza discutibile che il radicamento sia quinquennale, insomma è un modo un po' curioso di individuare il tempo per cui si è radicati in un territorio, però il tema è sempre quello, deve dipendere dal soggetto, non da suo padre, il tema della cittadinanza, e credo che sia legittimo definire la cittadinanza una conquista prima ancora che un diritto. In un paese devi conoscere le regole, devi rispettarne la cultura, cioè ci sono dei doveri connessi allo status di cittadino che io credo non siano suscettibili di modifiche legislative come quella che ho appena ascoltato, per cui se ho capito bene dice no, noi gliela diamo per 18 anni, se tu vuole la revoca, ma che stiamo parlando, mica un gioco. Allora i diritti è chiaro che ci devono essere, mi pare che in Italia nessuno abbia negato i diritti, anzi se pensiamo ai nostri asili nido, parliamo di bambini, sono affollatissimi di cittadini stranieri, perché le questioni legate al reddito molto spesso vedono sovravanzare rispetto ai nostri connazionali le famiglie straniere. Anzi, casomai l'adozione di un quoziente Italia renderebbe giustizia pure ai bambini italiani, perché insomma anche di questi dobbiamo parlare, non ci sono solamente i bambini italiani, sono anche quelli italiani. Però Storace, non è quando il ministro Chienge dice il meticciato è già una realtà, lei condivide? Non c'è dubbio che siamo alla presenza della società multietnica, non c'è dubbio. Allora, il passaggio a cui tende la ministra verso una società multiculturale io sarei un po' più prudente. Cioè dice, visto che il dato di fatto è questo, non dobbiamo, lei dice, rassegnarci a questa situazione adeguarci. No, scusi, se lei attribuisce il termine rassegnarci, considero una sventura. Adeguarci. Non dobbiamo però vorrei che ci fosse una condizione di favore, di privilegio, di preferenza per il cittadino italiano. Questo sì, perché abbiamo costruito un modello di welfare che oggi deve fare i conti con l'amara realtà, con le famiglie italiane che stanno in fila alla Caritas. Ecco perché ho sbagliato il messaggio delle istituzioni di questo ministero, non ricordavo nemmeno che c'era col governo Monti, proprio perché insomma non mi pare che sia passata la storia. Sì, comunque lei dice un modello di precedenza, preferenza ai cittadini italiani. Il tema del diritto dei cittadini italiani oggi campeggia ancora di più. È sbagliato proprio il messaggio che si manda, per cui vengono sempre prima gli altri e poi gli italiani. Ma sa, vede gli altri, ma qui ripartiamo tra un attimo dopo la pubblicità. Gli altri pagano l'11% del PIL. No, ma poi gli altri, quelli che lei definisce altri, per questa proposta, per esempio, di onorevole Khalid Shawki, se sono radicati, sono cittadini italiani e quindi non dovrebbero neanche essere più definiti altri, sebbene abbiano magari il colore di una pelle diversa dal bianco. E allora eccoci, sono le 8:37 minuti, è talmente fretta che entro anche sulla sigla. Chiedo scusa al nostro alpino Peter Bescapè, siamo con Francesco Storace, con l'onorevole Khalid Shawki, ci ha raggiunto anche, tra poco sono da lui, il capogruppo della Lega Milano Alessandro Morelli, intanto lo saluto, buongiorno Morelli, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tra poco sono da lei, vorrei due ascoltatori, Armando da Milano, Armando, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo solo dire per lo Ius Soli che prima di parlare del diritto o meno di rimanere cittadini italiani, di diventare cittadini italiani con la nascita, bisognerebbe uniformare la normativa e spiegare a tutti che i parenti entro il secondo grado di cittadino italiano sono inespellibili anche a fronte di determinati reati. E quindi creerebbe un agglomerato di persone che potrebbero avere dei risvolti di illecito. Va bene, grazie Armando per questo suo parere sulla legge. Rimarrei sempre a Milano da Omar. Omar, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Sì, ringrazio per l'argomento. Sì, io parlo da padre che ha dei figli, nel senso che già in mia famiglia sono due pensieri diversi. Io sono più di 20 anni, ho i requisiti per chiedere la cittadinanza e non l'ho mai richiesta. Io penso che un po' irresponsabilità da parte mia, perché avrei avuto delle opportunità diverse di quelle che ho adesso. Io considero i miei figli sempre algerini, sono algerino, non sono italiano. Algerino. Io li considero sempre algerini per me, ma questi, come che mio figlio già 8 anni, quasi 9 anni, già non condivide questo pensiero con me. E non è che mi fa arrabbiare, è giusto, è nato qui. Normale dialettica familiare. Anche per le opportunità per mio figlio. Io dico, non lo so, anche come che vedo l'Italia per gli studi non è un paese. Ma lei Omar, mi scusi, lei Omar cosa ne pensa di questo dibattito che c'è in Italia? Io considero questo, di Ussoli, sia una cosa anche sbagliata, nel senso prenderla così, secondo le senza regole, e penso che la legge quotidiana è anche sbagliata, nel senso che 18 anni se le chiedi, dopo un anno se non fai la richiesta perdi già i requisiti. Sono due estremi sbagliate, nel senso che una cosa più moderata, se uno nasce qui e poi vive qui per un certo punto, non lo so, dico io, consideriamo che fino alle scuole obbligatorie, fino alla terza elementare. Ma questa è già la legge, cioè se questa è la legge, cioè se uno nasce qui fa tutto un percorso, credo di 10 anni, eccetera, dopo, poi può 18 anni, esatto. La legge di adesso, dopo 18 anni hai un anno di tempo per fare la richiesta. Se non la fai entro l'anno Stiamo parlando dei figli, non sì, di noi, sì. Noi 10 anni, io ho i requisiti, io mi tolgo, noi stiamo parlando dei nostri sì, figli, certo, certo. Io ho i requisiti e non ho fatto la richiesta, ma i miei figli non possono stare qua fino a 18 anni e hanno un anno di tempo. Lei dice magari Omar si potrebbe accelerare questo passaggio, però prima di andare da Morelli, Sciau, chi vuole rispondere a Storace, prima diceva gli altri, questa frase l'abbiamo interrotta qui per la pubblicità, quegli altri definiti da Storace sono quelli che producono quanto di PIL, ce lo ricorda, 11? Ah, più del 10%, 10%. Sono il famoso milione di badanti, sono questo il 18% dei nati nel 2011. Beh, ma in questo Storace mica nega la necessità che ci sia bisogno di un'immigrazione che lavori, eccetera, qui si parla di cittadinanza che è una cosa diversa. Ma Storace nega il diritto ai figli di immigrati di sentirsi italiani. Noi sappiamo che la cittadinanza è una cosa importante, questo discorso vale per gli adulti, per chi arriva da un anno o due, ma non vale per un bambino che è nato in Italia e che ha lo stesso diritto di crescere da italiano come suoi coetanei. Vabbè, capito Storace, lei nega questo diritto. Scusi una cosa, io vorrei capire, sto ascoltando un po' tutti adesso un po' basito, ma perché è davvero un problema avere un anno per fare la domanda per la cittadinanza? Ma il problema è avere la cittadinanza dopo 18 anni ininterrotti, questo è il problema, unico in Europa, Vabbè, Storace dice stare 18 anni ininterrotti è un po' troppo. Faccio un esempio, perché io quando ho usato l'espressione degli altri era per la comunità di linguaggio, non sì, certo sì, sì. Un'altra cosa rispetto a noi. Voglio dire, questa mattina il Consiglio regionale, il mio collega Fabrizio Santori, presenterà la proposta di legge, che regherà anche la mia firma, ad esempio, sulle questioni che riguardano i nomadi e il diritto dei cittadini comunitari a restare in Italia anche se non hanno un reddito. Ecco, l'Europa lo impedisce questo. Vogliamo accettare questa storia che ci viene dall'Europa o no? O dall'Europa dobbiamo ascoltare solamente quando ci invitano a mettere più tasse? I diritti delle persone che stanno nel nostro territorio devono essere legati o no anche a un reddito che le metta nelle condizioni di essere sicuri che non devono delinquere? Sì. Queste sono questioni che riguardano qualunque cittadino italiano dotato di buonsenso. Se qui invece basta venire da fuori per poter fare come gli pare, non è possibile. Questo sì, noi parliamo di persone che sono qui e si vogliono integrare, che sono in maniera legale. Però facciamo sentire quest'audio, l'audio che ci introduce il nostro Morelli, l'audio. Ministro, volevo solo stringerle la mano. Sono il capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale. Grazie, ragazzi. Niente mano, Ministro? Neppure la mano? Neppure la mano, Ministro. Allora, voglio Morelli, questo è l'audio. Buongiorno, intanto, ben ritrovato. Alessandro Morelli, capogruppo della Lega Milano. Ieri lei si è presentato al Ministro Chieng. Devo dire una cosa. Intanto, perché lei voleva stringere la mano al Ministro Chieng? Ma assolutamente era un gesto distensivo, nel senso che nelle scorse settimane, anche da Radio 24, insomma, con gli ospiti che avete avuto, sono nate un po' di polemiche rispetto alla Lega che ce l'avrebbe con il ministro. Volevo segnalare che io ce l'ho sicuramente con qualcosa, ma sono le idee della Chieng. E quindi volevo stringere la mano alla persona, segnalare, io stai tranquilla, io ti farò la guerra politicamente, chiaramente, democraticamente, in ogni sede possibile e immaginabile, sì. Ma sappi che bene o male ti rispetto perché ti stringo la mano. Allora, io vedendo le immagini, secondo me ci sono due fasi. Nella prima fase forse lei ha sbagliato, perché si è avvicinato al ministro, che in questo momento, un momento di tensione sociale, un momento in cui la scorta non sapeva lei chi fosse, si è avvicinato proprio in maniera un po' così e subito un uomo della scorta è arrivato e l'ha, come dire, ma lei chi è? Cioè, non si è qualificato, eccetera. Poi c'è la seconda fase, quella di una sorta di inseguimento, no? Quando si sentiva l'audio, quando si è chiarito che lei era un rappresentante politico, e lì forse il ministro Chieng effettivamente non le costava nulla fermarsi dopo che si era capito e veniva a stringere la mano. Però non era un po' una provocazione la sua? Cioè, perché andare lì pubblicamente a fare questa stretta di mano? Mi perdoni, allora io non so la Chieng che idee abbia. Per me una stretta di mano non è mai una provocazione, a prescindere. Era evidente, peraltro, lei ha perfettamente ragione. All'inizio gli agenti della scorta non mi hanno riconosciuto. Immediatamente, siccome come tutti potete immaginare, c'erano anche agenti della Digos milanese che mi conoscono, hanno segnalato che non sono una persona assolutamente, che non ero una minaccia nei confronti del ministro, mi hanno lasciato andare serenamente, senza problema. Quindi ribadisco, una stretta di mano, secondo me, a casa mia non è mai una provocazione. Secondo lei sposerebbe quello che ha detto anche la Russa qualche giorno fa a Radio 24 dicendo non vorrei l'avessero fatta ministra per il colore della pelle? No, anzi, il dato è che le sue idee sono pericolose. Va bene che ci sia questo ministro, infatti alcuni anche su Facebook, attraverso delle mail, mi hanno proposto di a questo punto rilanciare una richiesta di dimissioni. Assolutamente no, perché la Kyenge rappresenta perfettamente le idee di questa sinistra, idee secondo me molto pericolose per la nostra società, che io non condivido e combatterò sempre in ogni sede democratica e politicamente. Sì, quello sì, no. Resta questa idea dell'andare a stringerle la mano, un pochino, lo dico, un pochino di provocazione c'era, cioè davanti a tutti i fotografi in mezzo a un'occasione pubblica, cioè presentarsi così in maniera un po' irruente a dire voglio stringerle la mano. È stato un no? No, a me pare di essere stato assolutamente educato, di essermi porto alla signora spiegando anche poi le ragioni. Io con la signora magari parlerei parecchio, ma il dato è che non è il problema Kyenge. La Kyenge in questo momento rappresenta una il Partito Democratico e la sinistra. Ci sono tanti esponenti, a Milano è un disastro. Lei diceva giustamente un momento di tensione. Caspita, per forza c'è un momento di tensione a Milano e capisco gli agenti della scorta. Qua ci sono personaggi che vanno in giro, bombe che sono disponibili a fare dei massacri, eppure la politica milanese va proprio in favore di queste bombe situazioni. In che senso? Cioè si riferisce al caso singolo di Cabobo? Certo. No? No, beh, guardi che mi perdoni, non è un caso singolo, ce ne sono tanti, e questo mi è stato dimostrato anche da alcune telefonate, alcune segnalazioni non solo da cittadini ma anche da esponenti delle forze dell'ordine che si trovano legati di fronte a questa situazione. Allora, da qui, e che c'è anche il tema della cosiddetta, dicono al Partito Democratico, speculazione di questo fatto tragico, certamente a fini politici da parte della Lega, ripartiamo tra un attimo dopo il traffico. Allora, insieme al capogruppo della Lega Nord del Comune di Milano Morelli ci sono l'onorevole Khalid Ciauchi e Francesco Storace, ai quali voglio chiedere, c'è anche un ascoltatore Hassan, sono da lui anche se tutti siamo molto molto brevi ed efficaci, vorrei chiedere un commento anche sulle questioni appunto di Milano, i tragici fatti di Mada Kabobo. Onorevole Ciauchi, devo dire questo, che oggi Roberto Maroni, riguardo proprio alla vicenda della stretta di mano mancata, in un'intervista a Repubblica dice: ho una certa esperienza, so come vanno queste cose, quando un ministro in visita ufficiale ha tornato dalla scorta non credo proprio che la Kyenge abbia voluto rifiutare la stretta di mano, penso non si sia neppure accorta di quello che stava succedendo, ma comunque insomma versioni. Ciauchi, che ne pensa? È una strumentalizzazione la vicenda Kabobo, oppure insomma, come dice Morelli, ci sono persone di cui non sappiamo che sono qui a fare e di cui dobbiamo stare attenti? Beh, la Lega Nord in questi giorni lancia il sasso e nasconde la mano, insomma, noi abbiamo visto subito un minuto dopo la tragedia di Milano, la ministra Kyenge accusata di essere mandante morale, insultata da Borghezio che ieri è stato condannato e censurato da 5 gruppi del Parlamento Europeo, incluso il PPE. E insomma, il Forza Nuova su questa scia ha attaccato numerosi circoli del PD. Insomma, non voglio adesso essere quello che insomma taccia di razzismo tutti e tutto, però voglio dire che in questo periodo difficile la Lega Nord ha fatto un brutto gioco, perché su una tragedia che tutti noi sentiamo tentano di costruire e di riprendere una propaganda che di fatto è stata utile alla Lega in un certo periodo della storia italiana, che oggi invece insomma non è utile per risolvere i problemi, semmai a cercare qualche consenso facile. Vediamo anche lo stesso Storace, secondo lei c'è un po' di strumentalizzazione? Poi lo chiedo anche a lei, secondo lei è stata condivide la frase che è stata messa lì in quanto nera come ministro? Io credo che la Russa non sia lontano dalla realtà, perché tante volte c'è anche il razzismo al contrario. Vorrei stare sul tema che avete sollevato sulla Lega, che non ha bisogno di me come avvocato, ma veramente il problema sono le frasi di Borghezio e non l'atto criminale compiuto da quel signore. Io vorrei l'atto criminale c'è, sì, nessuno. Scusa, però lei a me interrompe, faccia finire, sono così rare le occasioni in cui parliamo. Ma non è vero, noi la chiamiamo. Faccia dire la mia, per favore, perché altrimenti lui mi chiamare. Io credo che se il ministro, la ministra, si fosse astenuta dal continuare a parlare di queste cose in presenza di una situazione criminale che esaspera oggettivamente il dibattito, io credo che sarebbe fatta una cosa buona e giusta. La stretta di mano, vede, E c'è anche un problema di cultura legato a questo paese. Lei sa che ci sono religioni, che ad esempio nell'aspetto più integralista, che impediscono alle donne di stringere una mano, no? E come no? Se ci fosse un ministro che non dà la mano per religione, io sarei preoccupato. Capito? Cioè io vorrei ministri esattamente come le persone normali. Ma secondo lei la Chiesa è così? No, non credo. Non lo so, prima abbiamo ascoltato quel cittadino algerino che faceva tante discussioni, divagazioni sul tema, la cittadinanza. Poi magari può capitare anche che per motivi religiosi si ammazza la figlia che sta con un cittadino cattolico. Insomma, ci sono delle cose che non si comprendono, perché dobbiamo per forza ospitarli noi. Vabbè, Hassan da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, io non riesco a capire fino a quando questi movimenti della Lega, anche altri, continuano a negare questa società che ormai da tantissimi anni, anche io ho dei figli Milan come lei, c'ho nell'asilo che si chiama il 70% stranieri, c'è la Vladi, c'è Aia, c'è Zia, c'è Karim, c'è Denis, c'è Santiago. Questo nel veronese, noi abbiamo un sindaco leghista che è sempre espresso bene nei confronti dei nuovi cittadini, non li chiamo più immigrati, perché devono essere inclusi nella società, non c'è più il tema integrazione, qua si chiede l'inclusione sociale, perché attenzione, io lancio anche una provocazione, perché fra qualche anno i nostri pensionati italiani non riceveranno più soldi se questi immigrati, i nuovi cittadini hanno deciso di, e già tanti hanno deciso di andare via dall'Italia, se andranno via tutti dall'Italia e veramente l'Italia, insomma, lei dice Hassan è un messaggio quasi a Morelli, lei che è della Lega. Hassan chiama da Verona, dove dice avete un sindaco Tosi che parla sempre di inclusione invece di avere questi atteggiamenti, certo il rispetto delle regole, ma questo è la base che io non metto neanche in discussione, insomma, che da cui si deve partire. Noi non la mettiamo in discussione, siamo perfettamente d'accordo, l'inclusione e l'integrazione sono, e la cittadinanza è il termine di questo percorso di integrazione e di inclusione, altrimenti non se ne parla neppure. È chiaro che non è che uno arriva e la cittadinanza è come la carta del formaggio che viene data, così uno scontrino fiscale che la prima persona che arriva gliela si dà. Detto questo, rispetto va alle persone, agli stranieri, ai bimbi stranieri che sono per esempio nelle nostre scuole, ma io a questo punto sfido chiunque a dire che un bimbo straniero ha dei diritti in meno rispetto a un bambino italiano. Sinceramente, poi altrettanto sfido qualcuno a dirmi se ha mai sentito un tredicenne, un dodicenne, un bambino di 5-6 anni dire: caspita, non sono italiano, non mi sento tutelato perché non ho il passaporto italiano. Ragazzi, stiamo parlando veramente di fregnacce. Vabbè. Bisogna arrivare alla fine di un percorso di integrazione, compreso quello, cioè la sfida va proprio per i bambini. Cioè io invito tanti signori che stanno parlando, i tanti esponenti anche di sinistra, a venire nelle nostre zone a Niguarda, a Soglia, a Quarto Giaro, e vedere le signore in burca, i bambini di queste si signore, fermi qui però Morelli, perché sennò sforo. Vi ringrazio, tanto è un tema sul quale torneremo periodicamente. Grazie a tutti, cari Ciauchi, Francesco Storace, Alessandro Morelli, a domani alle 7:30. 24 mattino.